Benvenuti a tutti, puntata numero 7 di NBA Week, la trasmissione NBA sulla stagione 2016-2017 su Radio Big World. Eravamo rimasti alla Christmas Night e ripartiamo più o meno da lì. Iniziamo con il nostro mashup settimanale, partiamo dal 27 dicembre. Oklahoma City Thunders che battono i Miami Heat 106-94 con la solita tripla doppia di Russell Westbrook da 29 punti, 17 rimbalzi e 11 assist. Si tratta della quindicesima stagionale. Contemporaneamente gli Houston Rockets proseguono a vele spiegate battendo 123-107 i derelitti Dallas Mavericks con il solito James Harden da 34, 5 rimbalzi e 11 assist. Utah vince di 2 sui Los Angeles Lakers 102-100, la tripla che decide della partita arriva nel finale e la mette Joe Ingles, 31 punti per Hayward dei Jazz, 3 giallo-viola, 25 di Randall, 22 di Lou Williams partendo dalla panchina. 28 dicembre, Chicago Bulls 101, Brooklyn Nets 99, per Brooklyn c'è il solito Brook Lopez da 33 punti, per i Bulls ci sono 40 punti di Jimmy Butler che cattura anche 11 rimbalzi e segna un impressionante canestro della vittoria sulla sirena, anche 12 assist per Rondo e 16 per Dwayne Wade. Altro tiro della vittoria nella notte, a bersaglio, stavolta per il nostro Danilo Gallinari. È suo il canestro decisivo che decide la vittoria dei Nuggets per 105-103. Danilo chiude con 18 punti. Dall'altra parte, quella degli sconfitti, i Minnesota Timberwolves, ci sono 25 di Wiggins e la tripla doppia di Karl Anthony Towns con 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. 121-111 invece degli Warriors sui Raptors. 27 punti di Lowry, 29 di DeRozan non bastano. Dall'altra parte ci sono 22 con 17 rimbalzi per Durant, 28 per Curry, 5 su 7 da 3 per Klay Thompson con 21 punti totali, 14 con 10 assist per Draymond Green. 29 dicembre, partita tutto sommato divertente, quella passata su Sky. Potrete andare a rivedervela, potrete rivederla nel nostro blog post settimanale sul nostro blog medium.com/NBA Week che esce tutti i venerdì mattina, dove saranno riportate le selezioni delle principali partite di cui parleremo in questa trasmissione. La partita è tra Cavs e Boston Celtics. I Celtics rappresentano in questo momento la terza forza ad est. Ci sono 31 punti del solito frizzante Isaiah Thomas, di cui parleremo tra pochissimo, 23 di Avery Bradley, solo 6 per Horford. Tra i campioni in carica invece il solito terzetto, 32 con 12 assist per Kyrie Irving, 30 con 15 rimbalzi per Kevin Love, 23 con 8 rimbalzi e 11 assist per il King James, che farcisce la partita di giocate spettacolari, in particolare 3 stoppate, una indimenticabile, andate a rivedervela. Il 30 dicembre Isaiah Thomas non si ferma più. Avevamo gridato la settimana scorsa la prestazione della settimana quando ha segnato 44 punti. Contro gli Heat invece, in back to back dopo i 31 messi contro i Cleveland Cavaliers, ne mette la bellezza di 52 con 15 su 26 dal campo. Giocatore impressionante, lo ripeteremo allo sfinimento, se non altro perché a livello di altezza in una lega di giganti non arriva neanche a 1,75 m. Boston batte gli Heat 117-114. Sempre nella stessa notte i Rockets delle meraviglie segnano la bellezza di 140 punti nella vittoria contro i Clippers che si fermano a 116. Houston sempre più sorpresa ad inizio stagione, Harden sempre più lanciato verso livelli impressionanti, va in tripla doppia anche in questa partita con 30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Dalla panchina ci sono anche 29 di Harrell e contribuiscono pure Ariza con 18 e Beverly con 15. I Clippers invece, sempre senza Chris Paul, hanno 36 punti e 8 assist da Felton dalla panchina. Sempre il 30 dicembre, Harrison Barnes torna a Golden State da leader dei poveri Dallas Mavericks e ovviamente perde contro i vice campioni per 108-99. Segna però 25 punti e rappresenta una delle poche note liete dell'avvio della stagione di Dallas. Dalla parte dei Warriors, serata di ordinaria amministrazione con 29 punti in particolare di Klay Thompson. 31 dicembre, ultima notte dell'anno, una serie di belle sfide incrociate tra protagonisti della stagione. I Bucks battono i Bulls 116-96. Da una parte Giannis chiude con 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, dall'altra Jimmy Butler con 26 punti e 7 rimbalzi e 8 assist. I Cavs invece battono gli Hornets 121-109. Kemba Walker da una parte con 37 punti, dall'altra il solito James con 32, 5 rimbalzi e 5 assist. Ma la vera meraviglia della settimana, la vera prestazione della settimana è di James Harden. Houston vince contro i Knicks 129-122. Tra i newyorkesi c'è un'impressionante prestazione di Brandon Jennings. Il Barba però domina la partita e la chiude con la seguente clamorosa tripla doppia: 53 punti, 16 rimbalzi e 17 assist. Ancora una volta trascina i Rockets ad altissimi livelli di classifica ad ovest, più o meno mettendo bocca su gran parte dei punti realizzati. È responsabile diretto di 95 punti sui 129 degli Houston Rockets. È anche il primo giocatore ad andare in tripla doppia, superando i 50 punti, i 15 rimbalzi e i 15 assist nella storia dell'NBA, ed il giocatore responsabile della realizzazione di più punti nella storia di una partita dai tempi di Will Chamberlain, strepitoso James Harden. Iniziamo l'anno con la prima notte, all'interno della quale c'è da ricordare 43 punti di CJ McCollum nella vittoria di Portland sui Timberwolves 95-89, 41 punti di Kyle Lowry nella vittoria di Toronto sui Los Angeles Lakers 123-114. Ottima e interessante la partita tra Spurs e Atlanta Hawks, andata in onda su Sky Sport, soprattutto nel finale, partita rocambolesca che si conclude dopo un overtime. Si va infatti ai supplementari grazie ad una tripla praticamente sulla sirena di Tim Hardaway Jr., che chiuderà la partita con 29 punti, a conclusione di un ultimo quarto dove Atlanta era rimasta in scia degli Spurs grazie soprattutto ad un super Millsap che chiuderà con 32 punti e 13 rimbalzi, ed uno Schroeder da 16-10, giocatore capace di trovare la via del canestro nella rimonta, ma riuscire poi a rimettere tutto in discussione nei supplementari grazie a scelte a volte bizzarre di tiro e di gestione della palla. Da dire comunque che il tiro eventuale della vittoria dopo la tripla di Atlanta era stato scoccato da Kawhi Leonard, danza sul ferro a lungo prima di uscire e per questo si va all'overtime. Nell'overtime, ottimo avvio degli Hawks con tripla sempre di Timmy Hardaway, che sembra dare il là al vantaggio di Atlanta. Nessun problema però, perché San Antonio rientra in partita, se la gioca fino alle ultime azioni. Kawhi Leonard si risveglia dopo una piccola convalescenza, una partita piuttosto poco presente, segna una tripla pazzesca, si arriva in un finale concitato dove Hardaway prima e Schroeder dopo combinano dalla lunetta il vantaggio decisivo di Atlanta. 2 gennaio. I Cleveland Cavs battono i Pelicans 90-82, ma con soprattutto 26 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di LeBron. Golden State invece batte i Denver Nuggets 127-119 con una bella prestazione di squadra, un Draymond Green sugli scudi in tripla doppia con 15 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Da segnalare il nostro Danilo Gallinari con 19 punti e 8 rimbalzi. Harden, in un momento stratosferico, va di nuovo in tripla doppia anche in questa nottata. Contemporaneamente un altro giocatore sta vivendo un momento di stagione molto molto molto prolifico. Jimmy Butler batte con i suoi Bulls gli Hornets 118-111, chiude con una partita pazzesca da 52 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. È stato un 2016 che ha avuto il suo apice nelle NBA Finals, ovviamente, sebbene l'inizio di queste fosse apparso piuttosto bruttino, piuttosto scontato e facesse prevedere una facile cavalcata per i Golden State Warriors. Invece, quando si sono svegliati dalla parte dei Cavs, LeBron James e Kyrie Irving, la serie è diventata agonisticamente bellissima, con spunti anche tecnici e spettacolari di prima qualità. Spartiacque probabilmente la squalifica di Draymond Green per i Warriors per sommatoria di flagrant e per un comportamento un po' antisportivo per tutta la fase conclusiva dei playoff, e ovviamente la grandissima rimonta di squadra e il cuore di Cleveland, sotto all'inizio 2-0 nella serie, poi 3-1, nessuna squadra era mai ritornata da lì per vincere una gara 7, tra l'altro bellissima, tiratissima, tesissima, che ricorderemo sicuramente, con una sceneggiatura finale degna di Hollywood. Non sono stati dei playoff con grandissimi sussulti, per dire la verità, a parte la finale, splendida soltanto la finale di conference tra Warriors e OKC, quando sembrava fatta per Durante Westbrook, un redivivo Steph Curry riesce a forzare gara 7 in modo a tratti insperato e a ritornare in finale, anche qui in rimonta, anche qui con una sceneggiatura da film. Finita la stagione 2016, la palla è passata alla free agency e alle polemiche copiose che hanno portato Kevin Durant a scegliere Golden State Warriors piuttosto che riprovarci con i suoi OKC Thunders. Tutti, come ai tempi della decision di LeBron, hanno dovuto dire la loro a riguardo. Avrà avuto ragione Durant soltanto se a giugno si metterà l'anello al dito, altrimenti i molti detrattori lo stanno aspettando al varco, come aspettarono al varco il primo LeBron James perdente in finale in maglia Miami Heat dopo che aveva lasciato i Cleveland Cavaliers. La scelta di Durant ha aperto anche a quella che attualmente risulta una delle stagioni statisticamente più incredibili di sempre, quella che Westbrook sta portando avanti ai Thunder. Se proseguirà mantenendo una tripla doppia a partita, raramente riusciranno a vincere il titolo di MVP stagionale, anche se la corsa a due è probabilmente con il signor James Harden, splendente nel nuovo sistema Houston, operato da Mike D'Antoni, che è probabilmente già designato coach dell'anno, che ha trasformato i Rockets, con un organico apparentemente modesto, se si toglie ovviamente il barbone, in una delle squadre offensive più prolifiche della Lega, terzo record ad ovest. Inizio di stagione che ha regalato tantissimi spunti di riflessione sul resto della Lega. Se ad est ci si domanda chi potrà davvero mettere in difficoltà Cleveland, se non quei Toronto Raptors che arrivarono in finale di conference lo scorso anno vincendo due partite casalinghe ma non dando la sensazione di poterli impensierire più di tanto, ad ovest abbiamo assistito a una partenza a sorpresa dei Los Angeles Clippers con il miglior record della Lega, per poi sgonfiarsi precipitosamente e ritornare ad essere quell'oggetto misterioso che hanno rappresentato per raffronto tra potenziale e risultati negli ultimi anni. I Big Three dei Clippers sono probabilmente all'ultima danza. C'è da provare a ricostruire il prima possibile. Chris Paul e Blake Griffin potrebbero esercitare la player option per la free agency ventura della prossima estate, quindi potremmo essere ad un bivio per una delle squadre più incomplete a livello di risultati o irrisolte degli ultimi anni, per quanto il potenziale fosse sempre apparso assolutamente degno di alti palcoscenici. Sempre ad ovest, solo nell'isola di Marcus Cousins, nervosissimo e al solito sopra le righe nell'ennesima stagione deludente di Sacramento Kings. Non deludente però la sua stagione da un punto di vista personale, anche da un punto di vista statistico. Fosse ceduto, succederà probabilmente in estate, potrebbe essere uno di quelli che può spostare gli equilibri di questa Lega, perché se è vero che la finale prevedibile, almeno quest'anno, è il remake atto verso di Warriors-Cavs, è contemporaneamente realistico pensare, a mio avviso, che ci sono diverse squadre che, aggiungendo un giocatore simile già da febbraio, magari riuscendo a gestirlo, potrebbero automaticamente ambire ad inserirsi tra queste due formazioni. Chiudiamo ancora con l'analisi della stagione in corso e con le aspettative per il 2017 parlando di Ben Simmons di Philadelphia 76ers. Si tratta della prima scelta assoluta del draft passato e tutto il mondo vuole vederlo in campo in quei Sixers che già contano nel loro organico un signor Joel Embiid e il collega di frontline Okafor. Quando debutterà però Ben Simmons? È questa la domanda con la quale entriamo nel 2017. Si è parlato di un ritorno nei campi a gennaio dopo l'infortunio al piede occorso in pre-season. Philadelphia però ha praticamente smentito tutto questo spiegando che non c'è un timing previsto. Probabile un'operazione alla Embiid con esordio rimandato al rientro sul parquet per la prossima stagione e progressivamente. Significherebbe quindi rimandare di nuovo l'effettiva conoscenza reciproca tra i gioielli giovani dei Sixers alla prossima stagione, magari con un'altra scelta di livello proveniente dal draft da aggiungere a inizio di questa. Ultima citazione su tre giocatori importantissimi che il 2016 si è portato via dall'attività nella Lega. Tre giocatori che hanno vissuto tre carriere differenti, tre vincenti, diversi a livello di personalità, diversi anche nel metodo in cui hanno deciso di ritirarsi. Solamente tre nomi: Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett. Tre giocatori che mancano e mancheranno al futuro della Lega. Tre giocatori che sono mancati effettivamente nell'analisi dell'All-Star Ballot. Come sapete, dal 17 al 19 febbraio si terrà l'All-Star Game di metà stagione a New Orleans e si può già votare i quintetti delle selezioni per le squadre dell'Est e per le squadre dell'Ovest, ovviamente attraverso il sito NBA.com. Vi racconterò rapidamente quelle che sono le scelte che ho fatto io, ovviamente sono discutibili, ognuno può discutere questo tipo di scelte. Vi dico, proprio a tutela di quello che stavo dicendo precedentemente, che ha fatto un certo effetto per la prima volta dopo tantissimi anni non trovare nelle liste Garnett, Duncan e Kobe Bryant, andiamo a raccontarvi le mie scelte. Si può scegliere ovviamente tre giocatori per conference di front court e tre giocatori per conference di guardie. Quindi, East Conference, il front court, Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, LeBron James. Secondo me sono questi tre, per tre ragioni differenti. Giannis e Porzingis hanno già raggiunto livelli statistici pazzeschi. Giannis è potenzialmente il giocatore più migliorato della stagione e si merita anche statisticamente di stare nel quintetto All-Stars dell'Est. Porzingis sta giocando una stagione di grandissima crescita, secondo me rappresenta uno dei possibili giocatori del futuro di questa Lega, si merita la convocazione. James, è inutile spiegarlo, giocatore unico, probabilmente potenzialmente uno dei più forti se non il più forte della Lega. Outsiders, Joel Embiid, che mi piacerebbe tantissimo partisse in quintetto per l'All Star Game perché sta tenendo delle medie assurde giocando solamente 23 minuti a partita per il recupero del suo infortunio, e Hassan Whiteside, di cui spesso non parlo ma che a guardare le statistiche sta facendo una stagione pazzesca nei Miami Heat, purtroppo non certo una squadra di prima fascia NBA. Le guardie ad est che io ho scelto invece sono, inevitabilmente, Kyrie Irving e Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, come già detto, è potenzialmente uno dei giocatori più eccitanti della Lega. Fisicamente incredibile pensarlo così piccolo, così minuto, così capace di realizzare e di tenere in mano quei Boston Celtics che sono la terza forza d'est. Su Kyrie Irving poco da dire, è il leader spirituale, mentale e a volte tecnico dei Cleveland Cavaliers, campione in carica. Sta giocando una stagione da protagonista, si merita di stare in quintetto. Dispiace tener fuori ad est il duo di Toronto, scegliendo anche uno dei due, DeRozan e Lowry, però dal mio punto di vista Irving e Thomas sono necessariamente le due guardie del quintetto ideale ad est in questo momento e quindi per l'All-Star Game Ventura. Parliamo dell'Ovest rapidamente. Il frontcourt che ho scelto è composto da Kawhi Leonard, Kevin Durant, Karl-Anthony Towns. I primi due, poco da dire. Karl-Anthony Towns, grandissima stagione, grandissimo progresso, futuribile. Si merita di entrare all'All-Star Game dalla porta principale perché probabilmente ne sarà protagonista negli anni futuri. Da dire che ci sarebbe un DeMarcus Cousins che viaggia a quasi 30 punti di media e oltre 10 rimbalzi di media e che meriterebbe di stare nel top 5. Occhio anche a Gordon Hayward di Utah, altro giocatore di cui io parlo pochissimo, che forse meriterebbe un posto nella partita delle stelle, quantomeno nel resto del roster, non necessariamente ovviamente nel quintetto. Le guardie ad ovest, diciamo, io ho scelto James Harden e Russell Westbrook, perché sono i due giocatori in questo momento più influenti nelle loro rispettive squadre, statisticamente più pazzeschi come produzione stagionale, coloro che probabilmente si lotteranno fino all'ultimo il titolo di MVP stagionale. Tocca tenerne fuori uno importante però, avrete capito, si tratta di Steph Curry. Non è neanche una questione statistica, perché comunque Curry viaggia a 24 punti di media. Da un mio punto di vista, rispetto alla stagione scorsa dove Curry era inarrestabile e totalmente consapevole delle proprie possibilità, quest'anno lo vedo molto più limitato, lo vedo molto più in difficoltà. Probabilmente la presenza di Durant in squadra gli ha tolto tiri, gli ha tolto sicurezze. Questo sta creando una stagione per lui sottotono, una stagione che sicuramente non è pessima, che sicuramente riuscirà a riaddirizzare anche da un punto di vista di leadership e di convinzione. Del resto Golden State è una squadra vincente, la prima nella Lega in questo momento a livello di record, però tra Harden, Westbrook e Curry io scelgo i primi due. Benissimo, sono andato oltre stavolta veramente tanto, c'erano tante cose di cui parlare, la rimembranza della settimana ovviamente la rimandiamo alla prossima. Vi saluto, ci sentiamo giovedì prossimo su Radio Big World di streaming alle 21.30, in seguito nel canale di Belli 13 al solito e a partire dal venerdì mattina su medium.com/NBAweek con il blog post settimanale e con il SoundCloud di Radio Big World, dove è possibile scaricare il podcast di questa trasmissione. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Right hand fire, yeah! Let's go!